E allora alle 11:36 minuti, insomma, gli studi della radio invasi dalla rete internazionale in difesa del popolo Mapuche quasi nella sua completezza dei collettivi italiani. Manca la Puglia che stanotte, eroici devo dire, sono venuti per il presidio che abbiamo fatto ieri, insomma ne abbiamo parlato a lungo. E insomma, come sapete, in tempi di Covid non è semplice riuscire a fare i numeri, nonostante ieri invece, insomma, così è stata una bella presenza sia davanti all'ambasciata e al consolato cileni, sia ieri sera alla SNEA. Insomma, è stato sicuramente bello riuscire poi a fare un dibattito, no? Casomai mandare un video in meno, ma riuscire a parlarci un po' di più. E quindi oggi volevamo così, un po' anche per i chilometri fatti dai compagni delle campagne che ci hanno raggiunti, riuscire a fare un po' un punto, insomma, con la radio che ci aiuta invece a raggiungere parecchie più persone. E allora, io sono qui con Sofia, con Geraldine, con Orlando, insomma, lo sapete, i compagni di Padova, i compagni bolognesi, i compagni di Milano, e queste siamo. E allora, intanto io ringrazio Sofia per essere venuta. E così, allora, abbiamo raccontato, Sofia, insomma, era con lei che ci raccontava la sua esperienza diretta a Santiago del Cile, nei suoi anni di vita là, in particolare a Villa Francia, sicuramente uno dei dei quartieri più vivi così nella sua storia, perché credo che comunque sia un quartiere che ha tenuto alta la resistenza dalla dittatura oggi, quindi sicuramente una costante. E allora, lo sapete, noi volevamo puntare il focus con questo presidio a due giorni, cioè domani, il 18 ottobre dell'anno scorso iniziava la rivolta. E se abbiamo parlato tanto dei contenuti anche ieri, di quelli che sono stato, insomma, questo popolo che si sveglia, torna a volere la dignità, perché la dignità sia il costume, sia la quotidianità, sia una cosa che non si deve neanche nominare perché è la norma, ecco, e non sia l'eccezione, insomma. Quindi oggi volevamo un po' focalizzare invece su a una settimana, diciamo, da quello che sarà il referendum per rivedere la Costituzione, non per riscriverla, insomma, attenzione, perché anche lì ci sarà molto da stare attenti e tenere alte le antenne. Volevamo focalizzare invece su sul prezzo di questo referendum, forse, da una parte, no? Quindi niente viene viene dato per diritto, ma ci sono prigionieri e prigioniere politiche, ci sono minori nel Sename, ci sono dei morti a cui nessuno sta dando giustizia, ci sono delle persone che hanno perso la vista. Insomma, ci vorremmo anche e soprattutto focalizzare su quelle che sono state la vittime di una repressione di un governo che adesso cerca di fare una manovra molto, ahimè, quantomeno particolare, quella della revisione della Costituzione. Però forse è giusto pure, appunto, e qui passo la voce a Sofia, mantenere più che il racconto di quei giorni le condizioni di come stanno adesso i compagni e le compagne. Sappiamo c'è la coordinatora del 18 ottobre che si occupa faticosamente, anche viste le condizioni presenti, ma senza mollare, di prigioniere e prigioniere. Allora, Sofia, ci ricordi un po' i numeri, insomma, il tuo racconto? Ti apro il microfono e vai. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti, grazie a te, grazie a Radio Onda Rossa che sempre spinge, è sempre sul pezzo ed è un po' megafono, diciamo, delle lotte internazionali e delle lotte nel mondo, ecco. Ad oggi, vabbè, grazie a tutti quelli che hanno partecipato ieri all'iniziativa davanti all'ambasciata, è stato bellissimo, eravamo in tantissimi e questo ci dà speranza, ecco, che qualcosa effettivamente anche fuori dal territorio cileno si possa fare, ecco, perché alzare la voce è sempre importante, soprattutto per darla a persone che forse sono state, diciamo, silenziate per troppo tempo, ecco. Come dicevi tu, a partire dal 26 agosto è iniziata la campagna di tutti i partiti politici, destra e sinistra, per il prossimo plebiscito che si terrà il 25 d'ottobre, ma quello che vogliamo ricordare oggi, quello di cui vogliamo parlare oggi, è soprattutto la situazione delle più di 2000 persone che seguono, continuano ad essere incarcerate, sequestrate dallo Stato Piñera, sequestrate dal governo di Piñera, ecco, dallo Stato cileno. Vi leggo un po', mi sono preparata dei dati che secondo me leggere i numeri è sempre importante perché ci dà un po' idea di quelle che sono, no, le cifre e la situazione nelle carceri. Dal 18 di ottobre 2019, cioè un anno fa, giorno in cui è scoppiata la rivolta, fino al 31 marzo momento in cui per l'arrivo della pandemia in Cile si è un po' fermata, si è un po' frenata, diciamo, ufficialmente, anche se poi così non è stato, soprattutto a livello territoriale, la lotta quotidiana del popolo cileno e mapuche. Sono state arrestate circa 30.000 persone per vari motivi, per esempio violare il coprifuoco, per saccheggio e per altri delitti. Di questi 29.660 arrestati, ricordiamoci, tengo sempre a dirlo, 5.046 erano minori d'età, l'84% uomini e ragazzi, e il 15,5% sono donne e ragazze molto giovani. La situazione nelle carceri è molto complicata, perché, ricordiamolo, stiamo parlando di carceri private sovvenzionate dallo Stato, che vedono i prigionieri, non solo quelli normali ma anche soprattutto quelli politici, come clienti, no? Come clientela. Per loro avere un prigioniero politico significa un'entrata di soldi, ecco. Quindi queste persone, questi ragazzi terminano per essere numeri e terminano per essere una risorsa per queste imprese che lavorano e sovvenzionano le carceri, ecco. Per non parlare poi delle imprese esterne, le mense, tutto questo che si occupano, no? Del cibo, tutto questo. Diciamo che più prigionieri politici, più gente entra nelle carceri e più questa gentaglia si fa i soldi. Quindi ad oggi noi, come rete in difesa del popolo mapuche, ma come semplicemente persone coscienti, no? Semplicemente come persone che guardano all'altro e si preoccupano dell'altro, manifestiamo la nostra solidarietà internazionalista, antifascista e anticapitalista e soprattutto anticarceraria, non solo come è stato per esempio il 5 d'ottobre, la giornata in solidarietà dei prigionieri politici, ma tutti i giorni, e chiediamo la libertà immediata di questi prigionieri politici della rivolta, oltre che ovviamente a quelli mapuche che sempre ricordiamo. Appoggiamo ogni compagno che effettivamente ci ha messo la faccia, ha messo in pericolo la propria vita e si è giocato effettivamente la libertà per ripudiare il modello neoliberale e il sistema capitalista che stanno dominando, sfruttando e distruggendo le nostre vite. Odiamo tutti i fascismi, le azioni violente da parte dello Stato e l'abuso da parte della polizia contro chi lotta. Siamo qui oggi per denunciare anche e soprattutto i partiti politici, tutti i complici delle decisioni governative di Piñera e del suo governo, che hanno perseguitato, criminalizzato e castigato la protesta sociale cilena. Quindi rivendichiamo oggi tutte le forme di lotta del popolo, non solo cileno, perché vogliamo ancora una volta riaffermare il nostro compromesso solidario con la resistenza ancestrale del popolo mapuche, popolo in lotta quotidianamente da ormai sappiamo più di 500 anni in difesa della madre terra e della vita. Abbracciamo quindi la libertà di dire, gridare, scegliere, protestare, lottare, camminare, respirare, amare e soprattutto vivere, come dice il famoso slogan che io con i miei occhi ho potuto leggere, ascoltare, fino al giorno in cui valga la pena vivere. Ecco, questa è la frase che i cileni ad oggi ripetono, no? Quando un popolo non ha più niente da perdere, si mette in gioco la propria libertà, la propria vita, per dire basta. Vogliamo vivere dignitosamente, vogliamo poter studiare, vogliamo poter lavorare e vogliamo poter mangiare, ecco. Quindi ad oggi rivendichiamo e alziamo la voce dicendo che la libertà non si vota, non si negozia, non si vende. La libertà ci appartiene e per questa libertà continueremo a lottare. Non dimentichiamoci, che nessuno si dimentichi di queste 2.000 persone, più di 2.000 persone che ad oggi sono sequestrate letteralmente dallo Stato cileno in attesa di un processo, in attesa di processi basati su prove false, basati su montaggi. La polizia cilena è conosciutissima per i montaggi ridicoli e ovviamente per tutti quelli che sono complici di questi montaggi. Quindi libertà immediata a tutti i prigionieri politici della rivolta cilena. Sì, insomma, indubbiamente i numeri fanno riflettere, anche perché credo che sono anche quantità di anni di galera che vengono richiesti, che sono una appunto rispondono all'infamità della giurisprudenza cilena, perché sappiamo che poi appunto ci sono accuse, no, di persone che casomai prima della rivolta non avrebbero mai pensato di partecipare a un'azione così, o che il carcere entrasse nelle loro vite, adesso si trovano con casomai accuse che chiedono 20-30 anni di galera. Quindi insomma non sono solo prigioni della rivolta, ma sono vite che verranno insomma devastate non poco, se veramente non si mantiene alta l'attenzione, perché ahimè poi no? Sappiamo bene, ne abbiamo parlato spesso, quanto la giustizia cilena tra virgolette si basi poi su refusi che vengono ahimè da lontano, ecco. La giustizia cilena è fatta per i ricchi, è costruita per non mandare in carcere i ricchi e mandare in carcere i poveri. Va bene, allora io non so, Sofia, io ti lascerei il microfono aperto ore, però non so se vuoi aggiungere qualcosa, e poi passiamo un attimo invece alla parte mapuche, insomma, un po' più nel suo specifico. Avevamo da leggere un comunicato che ci è arrivato dalla coordinadora 18 d'ottobre, che come dicevi tu è la coordinadora che più si avvicina, più è vicina quotidianamente ai prigionieri politici mapuche. Secondo me è importante leggerla, perché questi ragazzi veramente come organizzazione meritano di essere ricordati e riconosciuti. Quindi volevo leggervi un po' velocemente quello che hanno mandato, quello che hanno scritto. Come coordinamento 18 di ottobre ci approcciamo criticamente al processo costituente e al plebiscito del 25 di ottobre per quanto segue. Riteniamo inaccettabile e immorale che si affronti un plebiscito e un processo costituente che sorge come risposta a istituzionale alla rivolta sociale del 18 d'ottobre, quando ad oggi continuano ad essere incarcerati decine di compagni. Sono loro, insieme ad altri, quelli che hanno messo il proprio corpo nelle strade opponendosi ad un modello abusivo di dominazione e sfruttamento, chiedendo una società più giusta. L'accordo per la pace del 15 di novembre è stato firmato con il sangue, le mutilazioni, le violazioni e l'incarceramento di troppi compagni, cosa che rende ancora più ripugnante il patto stretto dalla stessa elite politica partitaria responsabile della costante miseria, dell'abuso e delle ingiustizie di questi ultimi decenni. Non ci dimentichiamo che chi ha firmato l'accordo tra le quattro pareti sono gli stessi che nei mesi seguenti hanno firmato il pacchetto di leggi repressive, la legge per esempio antisaccheggio, anticappuccia, antibarricata, e per questo il processo non ci dà garanzia sulla liberazione dei nostri compagni e al contrario facilita la repressione e la carcerazione. Una nuova costituzione, nei termini in cui si parla di processo costituente, non cerca di dare voce alla sofferenza del popolo e al neoliberismo. Tutto il sistema di oppressione e sfruttamento ha bisogno di reinventarsi costantemente, e sotto questo punto di vista si prevede che con questo processo costituente non si riesca a passare a un modello un po' più moderato rispetto a quello neoliberista, cambio necessario per frenare l'ingiustizia sociale. Per ultima cosa, dichiariamo che la nostra lotta per la libertà dei prigionieri politici della rivolta è parte della lotta della stessa rivolta, la quale non può terminare con un plebiscito e con un processo costituente fatto su misura per la classe dominante di questo paese. Un obiettivo evidente di questi patti è quello di rallentare la lotta. Al contrario, il nostro fine è la libertà dei prigionieri politici e la trasformazione profonda e reale di questa società. La nostra rivolta non entra e non entrerà mai nelle loro urne. Insomma, abbiamo letto anche in piazza questo comunicato, che ci sembra molto chiaro, importante, e di anche la direzione, insomma, un po', no, sulle trappole in cui non si vuole cadere e su dove bisogna focalizzare l'attenzione prima che veramente queste persone, queste vite diventino semplicemente lo scontrino di quello che è costato arrivare a questa revisione della Costituzione. E allora noi ci ascoltiamo un attimo di musica e torniamo in diretta tra un minuto. Criminal retrasado. cacao, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiao, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje, hediondo, sácate el piñén, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrapuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza provocar. Primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza en nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada, y del Mabuzungun que no se sepa bullying nada. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos penis se cambiaron apellido, para no ser discriminado, basureado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorantes, ignorantes de un mundo que explota y es humillante, pero eran sabios de nuestra moñén, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canehuén. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Allora, questa è la voce di Luanco, ormai così il nostro rappero preferito. Rap Mapuche, non ci facciamo mancare niente. Come vedete, come sentite, stiamo disinfettando i microfoni. Che dire? Allora, Geraldine, con te stiamo sempre al telefono, finalmente in diretta. Questa cosa mi dà molta gioia. Così possiamo sentire questo accento cileno-milanese a cui non mi abituerò mai. Allora Geraldine, insomma, sei soddisfatta tu di ieri? Ciao a tutti, a tutte, sì, contenta, molto contenta, perché prima cosa la rete Mapuche è una famiglia per me, e vedere che ogni come dovrebbero essere le famiglie, sì, è una famiglia che è sparsa per tutto questo territorio italiano, e invece riusciamo sempre in qualche modo a stare insieme e creare questi momenti che politicamente e umanamente sono importantissimi per noi, quindi vuol dire che questa rete Mapuche va avanti, e ieri sono contentissima perché nonostante il coronavirus, nonostante il tempo, nonostante i mal di pancia, nonostante i poteri forti, siamo riusciti a stare lì di fronte. Infatti, un grazie, veramente tocca dirlo anche alla SNIA, che è stata molto ospitale, che certo, è riuscita così a cambiare l'organizzazione a seconda, certo, delle nuvole. Sì, quindi contentissima. Io spero che questo sarà il nostro saluto dalla distanza in questa giornata ad un anno della rivolta in Cile, che merita tanta solidarietà internazionalista in questa giornata. Noi di prigionieri politici Mapuche abbiamo parlato spesso, perché ahimè è una cosa che è sempre stata al di là, la persecuzione del popolo Mapuche rispetto appunto alle detenzioni, alle persecuzioni. Sicuramente con la rivolta c'è stato un po' un risveglio anche del popolo cileno in merito al popolo Mapuche, non solo come presenza sul proprio territorio, ma anche come probabilmente laddove ci si risveglia che il territorio è importante per l'acqua che si beve, per il cibo che si mangia e quindi per una dignità di vita, il popolo Mapuche si riscopre che è la battaglia che ha sempre portato avanti, non una scelta di una disciplina politica, ma la propria cosmovisione a guidare la propria politica. Come ci dicono i Mapuche, noi siamo anticapitalisti perché il capitale è il nostro nemico, e quindi noi ci sentiamo anticapitalisti dalla nascita perché combattiamo questo nemico. Sappiamo quanta ingiustizia che subisce il popolo Mapuche è basata proprio su quelle ingiustizie comprese sul codice penale del Cile e diciamo anche dell'Argentina, ma insomma oggi focalizziamo sul Cile. E quindi sicuramente anche il discorso della ingiustizia cilena è una quotidianità del popolo Mapuche, ma insomma abbiamo visto moltiplicarsi le bandiere, abbiamo visto così non diventa più un discorso slegato come poteva essere prima, no? Questo anche ne abbiamo parlato. Vogliamo ricordare anche, insomma, che sicuramente poi nelle galere cilene ci sono compagni e compagne che stanno pagando condanne che vengono da molto lontano, e sono quelli che si stanno incaricando di stare vicino in galera poi a chi è entrato con la rivolta, che come sappiamo sicuramente casomai non erano militanti, quindi insomma persone che si ritrovano, rete, relazioni, contatti, così. Cosa sta succedendo intanto nel Uolmapu? Tu ricordaci, insomma, anche lì il discorso dei prigionieri sicuramente non è slegato. No, certamente che no, non è slegato. Come dici te, i prigionieri politici mapuche si sono ancora in Cile, nonostante tutti quelli che chiamano governi di pseudodemocrazia. In Cile ci sono circa 35-40 prigionieri politici mapuche che sono ancora perseguitati e criminalizzati da una legge infame, che è la legge antiterrorista, che fu creata e fu lasciata da Pinochet, e che, come la Costituzione, e sarà sicuramente parte di questa Costituzione, non è stata toccata e non è stata mai abolita, che è una delle tante esigenze che il popolo mapuche lotta da tanti anni. La prigionia politica del popolo mapuche, se parliamo di compagni e di compagni che sono in carcere in questo momento, o che sono passati a fare parte delle sbarre della oppressione carceraria, accusati di terrorismo, è stata più che altro per difendere semplicemente la terra dei progetti estrattivisti delle multinazionali, che sono in tante quelle che arrivano a devastare, ad appropriarsi, a usurpare territori mapuche, che non è solamente il senso della terra, sino anche il senso del valore spirituale che ha la terra per i popoli originari come il popolo mapuche. Sulla situazione attuale, abbiamo visto qualche mese fa lunghi scioperi della fame, in cui ancora una volta il popolo mapuche chiedeva soprattutto il rispetto per il convegno 169 della OIT, un convegno internazionale in cui il quale dovrebbe proteggere le condizioni, in questo caso, dei prigionieri politici mapuche, e dare la possibilità anche di non di avere benefici, perché questi sono diritti come popoli originari, di poter esercitare la propria spiritualità, le cerimonie e tutto quanto, e anche perché, dovuto al Covid, la situazione era peggiorata, per cui chiedevano anche di avere il diritto di fare questa prigionia politica diciamo all'arresto domiciliario. Quindi ha scoppiato un lungo sciopero della fame che comincia con il Maci Celestino Cordova, e che poi col tempo si uniscono anche gli altri prigionieri politici dell'EVU, di Angol e di Temuco. Ma questo ancora una volta è stato, diciamo, una chiamata al vuoto, perché ancora una volta il governo cileno non ha sentito queste domande. Sono arrivate più di 100 giorni di sciopero della fame, e solamente uno di loro, che è il Maci Celestino Cordova, ha avuto almeno il diritto di tornare al suo spazio spirituale e essere trasferito, invece del carcere, è stato trasferito a un SET, che è un centro di studio e di lavoro. E quindi la situazione oggi è la stessa di prima: i prigionieri continuano nelle proprie celle, senza aver goduto di nessun diritto che era richiesto durante questo sciopero della fame. In particolare, noi come rete mapuche, lo voglio dire perché c'è sempre un collegamento tra tutti questi prigionieri politici che ci sono in questo momento in Cile, sosteniamo l'onco Facundo Uala. Perché l'onco Facundo Uala? Perché lui è, diciamo, la rappresentanza politica filosofica di una comunità, diciamo, Puel Mapu, che è lo che è attualmente la mal chiamata Argentina. È una comunità che da tanti anni sta lottando nel recupero territoriale contro la multinazionale italiana Benetton, che è arrivato in questo territorio acquistando terre, diciamo, in grande quantità, e tra queste terre c'è anche questa comunità. Arrivando Benetton a fare, diciamo, uso illegittimo attraverso la proprietà privata in terre che sono ancestrali, sia che per il popolo Mapuche, che ovviamente non hanno un proprietario, perché per il popolo Mapuche la terra non è proprietà privata, non si vende, non si usurpa, non si compra. Invece Veneto l'ha fatto, e per fare uso di queste terre ha usato la violenza, la repressione, tanta persecuzione politica. Sì, diciamo, ha usato tutto il potere che ha laddove due stati, no? Uno, il Cile e l'Argentina, completamente stanno al suo servizio, insomma, questo l'abbiamo visto, no? Quanto poi il potere economico crei anche appoggio politico, e quindi voglio dire, l'Argentina e il Cile si sono trovati i presidenti, i ministri a discutere dell'estradizione dell'onco Facundo Chonedwala, che, cioè, non si sa perché, poi è basata sul nulla, però non so se ci rendiamo conto chi si è mosso per chi, ecco, queste cose. E credo che appunto poi il prezzo a cui è stata comprata la Patagonia, piuttosto che le mani in pasta con lo stesso Macri per quanto riguarda società che fanno le strade, no? Sicuramente Benetton va al di là di essere un'impresa transnazionale presente su un territorio straniero, ma ha sicuramente un'ingerenza nella politica, nell'economia, che va molto oltre, insomma. Sì, quando parliamo, per dire, dei prigionieri politici Mapuche, che oggi parliamo diciamo del Cile perché è un anno della rivolta, c'è sempre un collegamento, no? E come dice l'Elonco Facundo, l'enemico lo stesso. E l'enemico lo stesso, perché come dicevi te, che io lo volevo dire, che il collegamento qua è che le multinazionali, dove possono fare i soldi, hanno fare interessi, ci saranno sempre, e perché c'è il collegamento politico di questa cosa che Facundo è di una comunità che si trova nella parte del Puelmapu, no? Della parte argentina. Invece c'è stato un accordo infame in quel periodo lì, nel 2017, tra il governo cileno di Bachelet in quel periodo e il governo argentino di Macri, in cui si sono accordati una mattina presto: questo qua deve essere estraditato. Era arrivato anche una chiamata, diciamo, della ONU, per dire: fermate tutto, qua ci dobbiamo fare due pensieri prima di fare certi tipi di azione. Invece il governo cileno, anche con il consentimento e la complicità dello Stato, il governo argentino, con la complicità del governo cileno, non hanno ascoltato nessuna chiamata che aveva fatto almeno la ONU in quel periodo per questa situazione di estradizione, e ha deciso in forma, diciamo, però veloce, di andare a prenderlo a casa, perché lui era in arresto domiciliario, e lo hanno estraditato arbitrariamente in Cile. Oggi l'onco Facundo Guala si trova nel carcere Temuco di Cile, e anche questo è la grande responsabilità di Benetton, che, come dice te, ha tanti interessi, tanti amici nella politica argentina e nel potere giudiziale, hanno combinato tra tutto una estradizione infame incostituzionale, perché non c'erano motivi legali per fare questa estradizione. È stato condannato in Cile a 9 anni di prigionia politica, di cui voler dire che questo mese ha scontato 3 anni e 4 mesi. Settimana scorsa, perché noi stavamo aspettando anche questo momento, c'è stata la richiesta degli arresti domiciliari, del cambio della misura cautelare, di poter beneficiare dell'arresto della libertà condizionata, cosa che in meno di 2 giorni, meno di 48 ore ci arriva la comunicazione che le è stata negata assolutamente, unanimemente delle quattro giudici della commissione per la libertà condizionata. Quindi qua ci rimane più che chiaro. Sì, che tra l'altro lui è stato condannato a 9 anni in un processo dove tutti gli imputati insieme a lui sono stati assolti. Uh-huh. Cioè, quello è stato proprio un processo dove hanno detto: assolviamo tutti, a te ti condanniamo perché lo stiamo facendo apposta. Cioè, era proprio palese, no? Quindi a lui è stata data questa condanna proprio per mentre tutti gli altri sono stati assolti nello stesso esatto evento, quindi non si capisce in che modo, no? Poi uno lo assolvi e 9 li assolvi e gli altri no. Quindi queste sono le condizioni in cui sta il l'onco Facundo adesso. Beh, sicuramente l'onco Facundo appunto ha una lunga storia, poi, oltre che giudiziaria, sicuramente di resistenza, e all'onco è un po', diciamo, l'apice da cui partono tante storie. La prima è quella del recupero territoriale del pull-off in resistenza di Cushamen, ora imparato a dire sì. Cushamen contro Benetton. appunto che sappiamo che è il pull-off più vicino alla tenuta di Benetton, e quindi Benetton è diventato proprio l'acerrimo diretto nemico della quotidianità, e viceversa, anzi, perché poi Mapuche vogliono stare in pace, Benetton che si è irritato che nel suo 1,5 milioni di ettari gli rubassero, no, tornassero questi indigeni, e quindi voglio dire, e Benetton è dietro a tutto questo, così come sappiamo che Benetton è dietro alla morte, la sparizione, l'uccisione di Santiago Maldonado, che ricordiamo appunto sparì e venne poi ritrovato morto, e quindi è stato ucciso proprio perché andava a manifestare contro l'arresto arbitrario dell'onco Facundo Gionesuana. Questa è una cosa che il l'onco non smette mai di ricordare, non smette mai di, voglio dire, di narrare la propria amarezza, il proprio dolore per questa storia, di ringraziare Santiago, perché appunto Santiago poi non era un mapuche. Anche lì la differenza tra volere stare a casa con la bandiera e poi invece voler andare sul territorio a partecipare. Quindi diciamo, l'onco Facundo Walla sicuramente è un personaggio importante, ma è colui che poi ha svelato tutti i magheggi di Benetton dall'altra parte del mondo. Quindi insomma, noi ci siamo dovuti svegliare, se l'abbiamo fatto noi con la rete, poi adesso torno diciamo invece alla nostra parte, perché poi noi qua stiamo, quindi le nostre pratiche le svolgiamo qua, la nostra politica la facciamo qua, e niente slegato. E appunto i compagni di Padova, comunque di quella zona, ci hanno raccontato, insomma sono anche loro qua, e quanto poi Benetton parte da qui, dove ha lasciato morte, devastazione, disoccupazione, devastazione dei territori, perché appunto il Ponte Morandi è caduto, ma i chilometri di autostrade di cui è proprietario Benetton sono infiniti. E sappiamo bene, insomma, perché è cronaca invece abbastanza parlata quello che sta facendo qui. Allora io inviterei proprio al microfono Orlando e Maria Laura, che tra l'altro appunto, ah sì certo Geraldine, siamo qua, c'è il microfono aperto quando vuoi. No, io volevo un po' finire, sì, per dire sull'onco Facundo Walla, come dicevete, che sicuramente la figura scomoda agli interessi economici del multinazionale con Benetton, per quello che diventa diciamo una figura è una figura pericolosa tra virgolette, e per quello che noi siamo sicuri che questa richiesta della libertà condizionata era già anche preparata molto prima, perché sì, insomma, già ci aspettavamo una risposta, sì, di questo tipo. Quindi noi insieme alla comunità, alla sua compagna, alla sua gente, continueremo a lottarlo, a sostenerlo di qua, perché noi continuiamo a dire ma a Benetton chi lo sfatta in galera dopo tutti i crimini che continua a commettere, tutte le devastazioni anche territoriali. Io volevo solo leggere un estratto dell'ultimo comunicato che lui ci ha inviato, dell'ultima iniziativa che siamo riusciti a fare a Padova, perché dopo lui di questo, sapendo che poteva beneficiare di questa libertà condizionata, ha detto me ne sto un po' buono, e quindi, hai visto mai, e quindi pubblicamente me tengo un po' al margine. Quindi dopo di questo lui ha voluto stare tranquillo, bravo, sappiamo che fa fatica, e quindi io volevo un po' condividere queste parole che secondo me sono molto, molto importanti, del comunicato dell'onco Facundo Walla della prigionia politica Temuco in Cile, dal carcere prodotto della persecuzione politica giudiziaria dei due stati, il cileno e l'argentino, oppressori e colonialisti al servizio dell'imperialismo e del capitalismo transnazionale, vengo a salutare con affetto i popoli oppressi del mondo, e continuando la chiamata alla lotta degli oppressi contro gli oppressori e l'appoggio cosciente di chi con valore attacca gli interessi capitalisti e non si arrende nonostante i proiettili e il carcere. Ci siamo stancati dell'umiliazione, della miseria e di vedere come il nostro popolo muore nella miseria, e abbiamo deciso di recuperare ciò che ci era stato rubato. Il territorio è di vitale importanza per la nostra esistenza come popolo mapuche, perché il mapuche senza territorio non può essere in modo integro, e oggi gran parte è usurpato della transnazionale Benetton, che è un mostro economico, non solo il maggior latifondo del Puelmapu, territorio dell'est occupato dall'Argentina, ma la sua condizione di sfruttamento, usurpazione e oppressione danneggia diversi popoli nel mondo. I governi sostengono e coprono questa logica del potere di Benetton nella zona. Non dubitano di utilizzare le sue intrusioni repressive giudiziarie e mezzi di comunicazione quando è necessario. Non possiamo più aspettare e dimenticare la giustizia winca, la giustizia non mapuche, mentre noi mapuche continuiamo a essere una grande maggioranza senza terra. È la unica alternativa di essere gli indigeni che vivono nelle città al margine, i peones, impiegate domestiche e operai, ovvero mano d'opera sfruttata della oligarchia creola, e l'empresariato transnazionale. Non accetteremo questa realtà per la nostra gente, per questo che la comunità in resistenza di Cusamen, di diversi territori uniti al movimento Mapuche, autonomo del Mapo, e ai suoi guerrieri Weishafe della resistenza ancestrale Mapuche, abbiamo affrontato a testa alta il suddetto magnate italiano ad altri con gli stessi interessi sul nostro territorio, con la combinazione di diverse pratiche di lotta mediante il recupero e il controllo territoriale produttivo animale per la nostra gente impoverita, sabotaggi e autodifesa, assumendo con dignità le conseguenze della lotta, il carcere, la repressione, incluso la morte, mentre ricostruiamo il nostro mondo come camminiamo, come cammino alla liberazione nazionale Mapuche. Difendiamo la vita Mapuche da qualsiasi progetto estrattivista, miniere e petrolifere, pretendendo distruggere il poco che ci rimane, e dove l'unico modo di difenderci dagli omicidi pianificati da parte del potere economico dello Stato, l'etnocidio e l'ecocidio, è mediante il controllo territoriale effettivo delle nostre comunità e mobilitazione, dando valore a tutte le forme di lotta fino a raggiungere tutto il territorio ancestrale libero e recuperato per tutto il nostro territorio. Siamo Mapuche, questa è la nostra ideologia, dottrina e percorso rivoluzionario ancestrale. Non pretendiamo vittimizzarci, né mendicare la solidarietà, tantomeno vendere lotte fittizie, illusorie, credendoci più di ciò che verità siamo. Così come essere parte di un popolo oppresso cosciente che non lottare contro l'oppressore converte in complici. Il capitalismo e l'oppressione devono essere distrutti, combattuti più con il discorso, con azioni concrete e effettive sul potere economico. Ogni popolo deve definire la sua propria prospettiva di liberazione, il suo progetto politico di emancipazione davanti al nemico della umanità e dei popoli del mondo. La lotta è urgente lì dove siamo, perché il sistema sta portando la natura e l'umanità verso una catastrofe. Le lotte anticapitaliste per la liberazione dei nostri popoli sono la possibilità reale di sopravvivere e costruire giustizia per tutti. Fuori Benetton dal territorio Mapuche, fuoco e sabotaggio al latifundio e alla transnazionale, territorio, autonomia, resistenza, ricostruzione e liberazione del popolo Mapuche, in memoria di Rafael Nahuel e Santiago Maldonado, Facundo Jones Guala, prigioniero politico Mapuche, carcere di Temuco. Non credo che ci sia da aggiungere altro, direi proprio disarmante, chiarissimo, come solo veramente l'onco Facundo Jones Guala sa essere. Allora noi prendiamo un minuto di fiato e poi torniamo invece con la parte nostra, voglia che avveleno verso Benetton. Ugiara, que a los cuatro vientos yo le quiero gritar, que yo a los mapuche voy a representar. Mi tela ancestral se debe levantar, mi tela ancestral se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar, hay que la recuperar, pero son nuestro hogar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Trompe, que suene mi tierra mapuche. Ya, ya, ya, ya. Día, quiñepu, quiñepu, en semilla la llegó. Mari, mari, pichi, que echa flor de oro soy yo. Con mi lonjo voy creando palabras en mi piu que entregando. Libertad, palabra creada durante la conquista que en mi pueblo nunca existirá. Libertad, palabra que en mi pueblo nunca existió y nunca existirá. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿O no? Y de mi lonjo nació con la escuela, creció para los peños y también la lamien. Me entiende lo que quieran llegar, para que usted me entienda, para que usted me comprenda, que no solo llegar y ponerse una prenda, porque todo tiene su significado, porque durante años y años hemos perdurado y seguimos aquí levantados, dando la lucha el día a día, día, día, día. Mira, es que yo soy como Cuyen que de noche puede divisar, represento a la mien que día a día sale a luchar. Y con mucho legüer esto se va a dedicar, que con mi padre Angullo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo, el mapuche ya nación. Esto nace de mi piu, que esto nace del corazón. Hay niños sufriendo la demencia, no quiere parar, diciendo mentira, no piensa en engañar, hablando de cuidar al pueblo y por la paila apuñalar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Y ellos nos incriminan como ladrones, siendo que de los delitos ellos fueron los verdaderos autores. Ser mapuche corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Sé que roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Ya van 500 años y no descansaremos. Incheta ni mapuche, ni por mi ya, okay. cagua in te y moñera. Pongo en cagua en tu que cuela y tu fenia y eñara. Que chupa ta catriba en tu amule y la miel negu en tu mena. Incheta ni mapuche ni ni volmi ya ok. Amule peta y huechan en cagua en te y moñera. Pongo en cagua en tu que cuela y tu fenia y eñara. Que chupa ta catriba en tu amule y la miel negu en tu mena. Y con el buen. Con el buen para mis tierras ancestrales. Escúcheme bien. Nuestra tierra nunca estuvieron en venta y nunca lo van a estar. Un fuerte afafán para mis tierras ancestrales. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hija. En Semillera y aquí en la casa. Boom, yeah. E allora, insomma, si parla di Benetton, immancabilmente si torna da quest'altra parte del pianeta, sicuramente più a nord, non che qui a Roma ci faccia bene Benetton, ma sicuramente da voi ha fatto più disastri. Insomma, se le autostrade appartengono a tutti, diciamo che la vostra zona viene da decenni e decenni di attività di Benetton, da prima delle autostrade. Allora, intanto, anche voi sono contenta che siate qua, che vi ho sempre sentito al telefono, e quindi intanto benvenuti Orlando e Maria Laura. Questa è invece l'appendice della rete padovana, posso dire, sì. Padovana comunque zona lì, provincia. Quindi non lo so, insomma, voi anche venite da anni in cui il vostro territorio è stato marcato prima con le industrie tessili, ce l'avete raccontato, insomma, no, negli anni 60, e poi viene tutta questa fabbrica che produceva sicuramente, oltre che operai, stipendi, no? Questo nessuno lo nega, ma il padrone poi è sempre padrone, quindi si ferma laddove c'è la sua convenienza. Beh, intanto io vorrei fare, prima di scendere proprio nello specifico di quello che è il nostro territorio, vorrei fare un parallelismo che mi sembra molto importante, che proprio nasce negli anni 90. Quindi se noi guardiamo gli anni 90, non soltanto in Italia, che come Benetton molti altri hanno approfittato della privatizzazione di tutte le risorse, delle infrastrutture e anche dei beni pubblici, come per esempio le autostrade, ma anche ovviamente in America Latina, gli anni 90 corrispondono ad un periodo molto Benetton cruciale. Compra la Patagonia nel 91. Infatti, e nel 92 si firmano gli accordi di pace, per esempio nelle guerriglie dell'America Centrale, però questo corrisponde poi a tutta una serie di implementazioni dei trattati di libero commercio, per cui si consolidano proprio queste dinamiche di privatizzazione, di accaparramento e di sussidiarietà dello Stato, si consolidano a livello planetario in America Latina, come anche in Italia, rispetto per esempio a quello che è Benetton e la privatizzazione. Questo ci permette di osservare proprio delle strutture criminali che si accaparrano di tutti i poteri dello Stato, proprio per lo sfruttamento delle risorse, dei territori che qui non ci accorgiamo neanche, perché fiumi che non si possono navigare per noi è normale, magari per un mapuche no, però per noi è normale che il territorio sia completamente devastato e che e le vite siano completamente accaparrate, per cui diciamo che il recupero che fanno i mapuche per una relazione che li riporti ad un'integralità dell'esistenza, che sia individuale, sia collettiva, sia di relazione con quello che non è l'umano ma che permette la vita, quella è una lotta che di per sé coincide con la vita, con la possibilità della vita, che è la lotta. Anche noi dobbiamo metterci diciamo in quell'ottica lì, se vogliamo una liberazione, un'emancipazione, un miglioramento ed evitare una serie di catastrofi sociali, perché evidentemente questi processi poi vanno a colpire quali sono i corpi sacrificabili, i territori sacrificabili, quindi a creare dei conflitti con parte della popolazione che sono devastanti, crudeli e di una brutalità che è totalmente integrata in questo sistema criminale. Anche perché appunto vediamo la militarizzazione delle zone, che anche qui abbiamo incominciato una militarizzazione delle zone ben pesante, c'è una violenza e una devastazione appunto ambientale che si appoggia a tutto quello che è che facilita l'apparato poi statale, per cui appunto non soltanto in termini militari ma anche in termini giuridici, giudiziali, quindi la criminalizzazione delle lotte la vediamo anche qui, ma è sempre bene tenere in considerazione quanto sia importante lottare contro questa criminalizzazione di chi agisce in prima linea. Anche qui in Italia succede, perché parliamo del Notav, parliamo di chi è attivo contro la violenza contro i migranti, chi cerca di denunciare. contro il gasdotto in Puglia, contro, certo. E certo, e gli operai comunque anche che si oppongono allo sfruttamento, eccetera. Quindi il problema della decolonizzazione è un problema reciproco che investe, cruciale storicamente, ma che investe decolonizzazione proprio del sistema neoliberale estrattivista, che coinvolge i territori da cui, a cui noi dobbiamo il nostro privilegio, il nostro benessere, le nostre strutture anche, diciamo, sociali, la previdenza sociale di cui noi godiamo qua in Italia, di avere comunque, benché appunto inferiore da quella che avevamo sognato, la sanità, l'educazione, e che abbiamo necessariamente grazie a quello che è stato levato in quei territori come il Cile, ad esempio. E quindi diciamo che una cosa molto importante che dobbiamo perseguire come obiettivo, sia appunto per quelli che devastano in America Latina come in Africa e come nei nostri territori, è quella della lotta all'impunità, perché l'impunità di chi ha prodotto morte, devastazione ambientale e stragi come quelle del Ponte Morandi è un obiettivo importantissimo se vogliamo frenare appunto questi impulsi, no, molto, molto grandi di violenza, e che ci legano anche con un filo rosso di responsabilità ad altri paesi, come può essere per esempio anche l'Enel, l'ENI. E quindi tenere presente anche certi consumi, certi tipi di consumi, quello che si coinvolgono, perché se noi pensiamo per esempio a quello che è l'economia verde, non ci rendiamo conto di tutto quello che comporta in termini di trattati internazionali economici che producono veri e propri colpi di Stato. Prendiamo il caso della Bolivia, ma andiamo indietro anche a un esperimento come può essere stato quello dell'Honduras, che proprio ha rafforzato tutte le imprese con una struttura coloniale militare, proprio grazie a questo tipo di progetti chiamati appunto di energia pulita. Le terre, appunto, parlavamo della Bolivia, noi qui possiamo anche pensare di avere un futuro con le batterie e le macchine elettriche. Sì, peccato poi che andiamo a fare estrarre il litio dal Salario Uyuni, e quindi ecco, queste terre rare poi vengono estratte nei paesi dove le nostre imprese cercano un'ingerenza politica per rafforzare appunto questa struttura criminale che produce incarcerazioni, appunto saccheggio proprio delle risorse. E se vogliamo passare più specificatamente ai nostri territori per vedere nella concretezza anche storicamente e socialmente come sono realizzate queste cose, passerei la parola ad Orlando. Orlando, grande. Saluto intanto tutti i nostri amici e compagni che ci ascoltano. Non è la prima volta che parliamo da questi microfoni, adesso parliamo in diretta e fisicamente siamo anche presenti. Infatti, bello, bello. Anche se c'è il Covid, comunque ce la facciamo anche questa volta. Beh, il tema di cui noi stiamo parlando oggi e le argomentazioni che abbiamo vengono un po' da lontano per quel che ci riguarda. Noi siamo del Veneto. Il Veneto è stato un modello di imprenditoriale, è stato un modello di capitalismo che ha fatto scuola anche a livello internazionale. Ha fatto scuola perché era portato come un esempio di sviluppo industriale, di sviluppo economico per una ventina di anni, soprattutto dagli anni 60 agli anni 80. E passava attraverso anche tutta una serie di meccanismi. Benetton, noi adesso parliamo nello specifico di Benetton, ma Benetton è uno dei rappresentanti massimi di quel tipo di modello. Come funzionava il modello? Funzionava semplicemente dalla fabbrica come luogo di aggregazione massima dei processi produttivi, è iniziato un processo di semplificazione, di diluizione nel territorio del modello produttivo stesso. Questo permetteva da un lato di non avere una grossa concentrazione operaia nello stesso luogo, che poteva creare dei problemi, e attraverso un processo decentrato più piccole entità produttive dal livello familiare o livello di piccola fabbrica erano in grado di essere più controllabili e nello stesso tempo erano in grado di produrre un maggiore plusvalore, perché la riduzione del costo del lavoro si andava affermando sempre di più, e anche legata alle misure di minore sicurezza, eccetera, e di minore combattività e di confronto e scontro tra classe operaia e capitale. questo modello qua, questo modello che poi si è diffuso su tutto il territorio nazionale, non solo, è stata una fase, diciamo, che molto, molto importante, che ha prodotto non solo, capito, un abbassamento del costo del lavoro e un controllo sulla classe operaia maggiore, ma ha prodotto anche un processo di devastazione diffusa dei territori, perché noi abbiamo spalmato sul territorio un modello produttivo e l'abbiamo spalmato su, anche attraverso un permissivismo e un, diciamo, e un chiudere gli occhi di fronte anche a tutte quelle devastazioni che questi modelli hanno prodotto sui territori. Noi ci ricordiamo benissimo che in quegli anni, capito, si sversava tranquillamente qualsiasi tipo di veleno o di rifiuto industriale, veniva sversato tranquillamente nei fiumi, nei territori, veniva interrato dappertutto, e adesso noi stiamo pagando, capito, questa eredità pesantissima la stiamo pagando, perché stiamo vivendo e stiamo morendo, perché non stiamo solo vivendo male ma stiamo anche morendo grazie all'avvelenamento che è avvenuto nei nostri territori. Ricordo una delle cose che magari sono balzate alla cronaca, che qualcuno magari ha notato, la storia dei FAS. La storia dei FAS è un inquinamento territoriale che avviene, capito, in zone molto ampie, riguarda circa 800.000 persone, ma riguarda un territorio molto vasto che va dal Veronese alla Bassa Vicentina, alla Bassa Padovana, e che rischia di allargarsi sempre di più. Cosa sono sti FAS? Lo sapete un po' tutti quanti più o meno cosa sono. Sono dei perfluoroalchilici, sono delle nanoparticelle, delle nanomolecole che sono entrate, capito, in circolazione grazie al fatto che venivano sversati sia nelle acque superficiali sia nelle acque di falda tutta una serie di residui industriali legati alla produzione industriale di una fabbrica, soprattutto la Miteni, ma anche di altre fabbriche del processo tessile che ancora prima, capito, usavano questo tipo di pratiche. E questo qui adesso presenta il conto, la natura presenta il conto e lo presenta sulla nostra salute, e lo presenta, capito, sempre di più sulla nostra salute, perché non riguarda solo l'avvelenamento diretto perché bevi magari le acque che sono, ma anche del cibo che mangi, perché i campi vengono irrigati con quel tipo di acqua lì. E questo è un grossissimo problema, penso sia una delle più grosse catastrofi che il nostro territorio sta vivendo, ha vissuto, capito, e che vivrà anche nei prossimi anni, perché i processi per disinquinare, i processi di bonifica sono lunghi, costosissimi, capito, e se si cerca da un lato di tamponare ponendo dei filtri negli acquedotti eccetera, però nella sostanza questa cosa si trascinerà a lungo nel tempo. Ma questo è uno degli esempi. Esempi ce ne sono anche molti altri, però torniamo al ragionamento su Benetton, come ha impostato anche il suo processo di arricchimento o il suo modello predatorio a partire dal tessile. Tutti lo sappiamo, United Color of Benetton è stato anche un marchio, è ancora una rappresentazione scenica, una rappresentazione un po', anche si è costruito anche un'immagine molto appropriata. Se posso fermarti su questo argomento, ad esempio, è proprio l'operazione di comunicazione che ha fatto Livero Stoscani per Benetton, è molto simile a quelle che fra l'altro fanno le imprese energetiche, come può essere l'Enel, la Iverdrola, proprio di mascherare, accapararsi tutte quelle che sono le istanze invece dei movimenti che contestano di protezione territoriale, l'ecologia, l'integrazione, l'integrazione razziale, come adesso chi fa invece l'ecologia invece va a fare delle dighe devastando i territori e producendo dei disastri che poi vanno proprio a rafforzare tutti quei processi di accaparramento di terre e di impedimento di ripetizione di riproduzione della vita, non soltanto materiale, perché devastano i territori, ma anche sociale e culturale, di qualunque diversità che possa continuare a vivere emancipata da questi sistemi di consumo. Sì, attraverso un sistema di comunicazione che è molto efficace, perché riesce a far sembrare o a creare anche nell'immaginario collettivo qualcosa di positivo che in realtà ha le sue basi che sono marce, devastanti. Cioè, il tessile, capito, metà degli anni 60 parte da lì, capito? La fortuna di Benetton parte da lì. Allora parte prima attraverso questo processo di decentramento territoriale con i laboratori eccetera nel nostro territorio e non solo. E come funzionava? Funzionava in maniera molto semplice: ti do la macchina, tu compri le macchine da me, io ti garantisco le commesse di lavoro. Allora io mi indebito, le famiglie si indebitavano, i piccoli imprenditori quelli che erano gli operai prima, gli operai proprio, che poi erano gli operai della grossa fabbrica, che venivano invogliati a dire: guarda, guadagnerai di più se entri dentro sto circuito qua, io ti garantisco il lavoro e ti vendo le macchine, tu ti indebiti per comprare le macchine, però sei garantito, perché poi alla fine pagherai le macchine e avrai anche dei grossi risultati economici, perché io ti garantirò che comprerò e ti fornirò tutte le commesse necessarie per farlo. Sta roba qua in realtà, capito, non ha funzionato fino a un certo punto, perché a un certo punto le commesse sono state ritirate e i debiti delle macchine sono rimasti. Questo è c'è da dire anche, fra l'altro, che questo ebbe un impatto sul lavoro femminile devastante, perché le donne che lavorano in gran parte erano donne che incominciarono a mettersi in questo circuito e lavoravano. Le inchieste che sono state fatte rivelano dei ritmi di lavoro allucinanti, uno sfruttamento proprio senza. Non c'era orario di lavoro, arrivavano a lavorare 10-11 ore all'ultimo momento, perché era una moda molto veloce. E le ultime inchieste invece mi pare che sono del 97, in cui si trovano proprio dei capannoni in Sicilia dove ci sono bambine lavorando per Benetton. Cos'era? Non mi ricordo, uno stipendio che era una miseria. Sì, perché chiaramente a cascata sta roba finiva che i livelli di sfruttamento erano sempre più alti. L'autoimprenditorialità significava anche autosfruttamento sempre più marcato, sempre più pesante. Sì, senza con totale deregolamentazione delle cioè alla fine, nel giro di poco tempo, però le cose cambiano ancora, perché rimangono i debiti, perché le commesse vengono ritirate, perché il lavoro viene delocalizzato in altri paesi dove il costo della manodopera era ancora più basso. E qui abbiamo un esempio per rendere chiaro, abbiamo l'esempio del Bangladesh e ce ne sarebbero tanti, come bambini curdi in Turchia, uno dei tanti, forse anche più significativo per il numero purtroppo di morti che ci sono stati, perché ci sono stati più di 1100 morti in un solo episodio, cioè il collasso di un edificio dentro il quale lavoravano il brand più famoso, di lavoratrici e lavoratori per Benetton. Benetton aveva sempre negato di avere degli interessi, ecco, rispetto agli altri. Benetton si distingue perché per due anni lui nega l'evidenza, perché lui avesse una migliaia di capi in produzione lì, che avessero fatto varie visite alla fabbrica e che lui fosse consapevole totalmente della repressione che veniva fatta a sindacare ai lavoratori, alle donne e delle condizioni di sicurezza dell'immobile. Alla fine nasce anche una causa legale molto forte per i risarcimenti. E nonostante Benetton avesse sempre negato, come dicevi te, questa responsabilità, alla fine viene condannato comunque come responsabile, perché i suoi interessi era evidente che erano legati a quella fabbrica. E lì, come la vedi tu, Orlando, adesso per esempio la questione del Ponte Morandi, quali pensi che siano i margini in cui noi possiamo... Sì, io volevo proprio arrivare qua perché siamo un po' in chiusura, però arrivare un po' all'oggi con te, che comunque sono 40 anni che gli fai la guerra. Diciamo un po' la nascita del meccanismo predatorio dei Benetton. Però quando il tessile comincia a tirare meno, perché c'è la concorrenza cinese eccetera, arriviamo a cosa? Arriviamo a una diversità di investimento da parte di Benetton. Benetton passa, cambia, entra dentro il gioco delle concessioni autostradali, perché in quel periodo lì, come dicevi prima, c'è il discorso dello smantellamento dell'IRI, le autostrade erano un bene pubblico, sono state fatte coi soldi nostri, cioè coi soldi di tutti, e facevano parte di quell'apparato industriale pubblico che si chiamava IRI, dove c'erano, oltre a grosse industrie, oltre all'acciaio, c'erano anche le autostrade. Le autostrade sono state si è fatto sto ragionamento qua, le diamo in concessione ai privati che fanno la manutenzione E garantiscono la sicurezza eccetera. La cosa poi sappiamo com'è andata, come ha fatto ad accaparrarsi le concessioni Benetton, con un meccanismo molto semplice, diventando l'unico quello più gettonato per avere i titoli, per avere le concessioni, e l'ha fatto pagando i politici, perché qua noi abbiamo le dichiarazioni stesse di Benetton, di Gilberto Benetton, che era la mente finanziaria del gruppo, che prima di morire dichiarava che quanto aveva dato e chi aveva dato proprio a ridosso della fine degli anni 90, quando sono entrate, cioè quando sono state assegnate le concessioni. E ce n'è per tutti, perché sia i partiti di governo che i partiti di opposizione sono stati complici nell'assegnare questo, nel fare le convenzioni, convenzioni che erano molto favorevoli e sfavorevoli rispetto al pubblico, favorevoli rispetto al privato. Sta roba qui, capito, ha creato delle contestazioni, un contenzioso che si è trascinato per anni, perché era talmente evidente, capito, la sproporzione tra interesse pubblico e interesse a favore dell'interesse privato, che addirittura commissioni parlamentari stavano lavorando, capito, per denunciare sta roba qua. C'erano tutta una serie anche di processi in corso. Però per chiudere tutta la partita, nel 2008 il governo Benetton, cioè il governo Benetton, sì, il governo Benetton, che sarebbe il governo Berlusconi, fa una legge ad hoc che si chiama legge salva Benetton, per cui possiamo chiamarlo governo Benetton tranquillamente per sta roba qua. E questa chiude qualsiasi contenzioso e qualsiasi partita sulla faccenda, e permette che tranquillamente i Benetton continuino a avere la concessione di più di metà delle autostrade italiane. E non soltanto parliamo di autostrade, ma parliamo di aeroporti, perché sì, tu dici poi, qua a Roma che c'entra? Gli aeroporti di Roma, anche quella è una partita che riguarda Torino, Benetton. Lione. No, so che giro il per l'Europa. Poi abbiamo anche esatto. E ci mettiamo nelle mani di un'azienda che non ha mai fatto le manutenzioni, cioè il 90% non degli è che utili, Ponte Morandi è cascato come da solo, li recuperiamo noi? Perché danno delle autostrade che sono in totale degrado, e tutti i soldi che lui non ha messo per la manutenzione certo, e che gli sono serviti a pagare i suoi per la debiti, sicurezza, perché ricordiamo che non è che ci si schianta da soli, ci stanno anche i guardrail che ti fanno fare e male, non è soltanto cioè, Ponte Morandi di... appunto. Beh, ma Ponte Morandi, diciamo che ha scoperto un po' gli altarini, esatto, ha messo in evidenza tutte queste contraddizioni. Cioè, ci ha svegliato con uno schiaffone non sì, indifferente. E lì sono cominciate delle indagini della magistratura che hanno messo in chiaro quali erano le connivenze, come funzionava il meccanismo. Qui ci sono dei falsi report sulla sicurezza, perché ogni anno erano comunque il concessionario era tenuto a fare tutta una serie di rilevazioni che dovevano stabilire lo stato delle autostrade. Questi report addirittura venivano falsificati, c'erano degli indici che dovevano per forza essere abbassati in base a direttive che venivano dall'alto. Se le direttive venivano dall'alto, vuol dire che ci sono delle responsabilità che vanno sempre più su e arrivano dove? Arrivano al gruppo Edizione, che è la finanziaria che controlla tutti gli affari della famiglia, fra cui Atlantia, che controlla a sua volta Aspi, che è Autostrade per l'Italia. Adesso e questo ha scatenato la reazione che poi all'inizio ha scatenato Benetton, palesemente inadempiente su tutti i fronti, considerato giustamente responsabile di tutto quello che sta succedendo dentro le autostrade di cui è concessionario, ha fatto sì che ci fosse una reazione popolare e comunque anche da parte di alcune forze politiche di mettere sul tavolo il discorso della revoca delle concessioni. Come sta andando e com'è andata un po' lo sapete tutti, c'è stato un po' di tiramola, i ricatti di Benetton che continuano anche oggi, perché Benetton si rifà alla convenzione che il governo ha sottoscritto e dice no, voi mi dovete garantire fino al 2042 la concessione delle autostrade, che mi garantisce un utile annuo di tot miliardi. Alla fine vengono fuori 24 miliardi che tu mi devi dare se mi ritiri la concessione. Vi ricordate il famoso numero dei 24 miliardi? Da cosa derivava? Derivava proprio da questo, dal fatto che il Benetton rivendicava al concedente lo considerava inadempiente, e considerandolo inadempiente doveva garantirgli i mancati guadagni che se gli ritirava la concessione fino al termine della concessione stessa. Questo è un po' il contenzioso che è nato e che si sta trascinando anche adesso, perché il governo da una parte insiste a dire no, gli ritiriamo le concessioni, ma dall'altra si vede che sconta anche una difficoltà perché e deve rifarsi comunque a quella maledetta concessione che è stata fatta allora. Ecco, questo è un po' una delle questioni più grosse che oggi si sta affrontando. E allora, insistendo, volendo portare sotto il controllo pubblico tutto l'apparato autostradale dei Benetton, oggi controllato dai Benetton, Benetton ti dice: boh, se tu li vuoi, tu me li compri a prezzo di mercato, io li metto sul mercato, per cui tutti possono comprarli. Se vuoi comprarli tu, capito, li devi chiaramente pagare al prezzo di mercato o anche di più, per battere magari altri compratori, eccetera. E Orlando, e non solo questo, aspetta, finisco, non sì. solo questo, lui vuole anche essere, con questa operazione qua, vuole anche essere liberato da qualsiasi pendenza pregressa. Cosa vuol dire? Che tutto quello che è successo, le mancate, tutte le inadempienze, esatto, che ci sono state, o tutto quello che lui doveva fare e non ha fatto, viene praticamente cassato. È la cosiddetta manleva. È la cosiddetta manleva, che vuol dire che lavarsi le mani rispetto al passato. Che è il contrario di quello che chiedevamo noi. Esatto. Cioè, noi chiedevamo in questi anni. Noi siamo andati in piazza, andiamo in piazza ogni anno. Più volte all'anno, capito? Cioè, cerchiamo di insistere su sta questione qua delle autostrade, perché vogliamo che le autostrade tornino a essere un bene comune, un bene pubblico, e vogliamo che Benetton paghi veramente i danni per tutto quello che ha fatto. I danni, le vite. Le vite, che, perché cioè, come si fa a di pagare nuovo, le vite? Parliamo di vita. Perché poi noi 20 adesso... anni di mancanza di manutenzione, quindi ci ritroviamo nelle autostrade. Sì, ma tutti gli incidenti che ci sono stati, esatto, perché non c'erano le misure di sicurezza. Ci ricordiamo, e questi quali soldi? Ci ricordiamo la questione del pullman che è andato giù dal viadotto a Qualonga. Ci sono stati 40 morti in provincia di Avellino. Proprio. E quella è stata la magistratura lì ha individuato anche delle responsabilità, perché non ce le inventiamo noi adesso qui a Radio Onda Rossa. Ah, no, ci sono, abbiamo di meglio da fare. Per chi se le vuole andare a vedere, capito? Si va a vedere le sentenze, si va a vedere, capito, cosa è successo durante le inchieste della magistratura, si va a vedere chi sono i responsabili, chi ha truccato i dati, chi non ha fatto le manutenzioni adeguate che doveva fare. Perché i disastri poi non è che nascono a caso, non sono fatti accidentali, ma nascono da precise responsabilità e precise mancanze da parte di chi ha il dovere invece di garantire la sicurezza dei beni di cui è concessionario. Fra l'altro, è una cosa anche importante, cos'è? Che Benetton, tutte le falsificazioni che ha fatto, ovviamente le ha fatte fare a dei tecnici, cioè i tecnici davano la loro perizia, col bianchetto proprio questi cancellavano. Allora cosa succede? Che è stato licenziato l'amministratore delegato, ma questa idea di far cadere le responsabilità non a chi guadagna, quindi agli imprenditori, ma a singoli impiegati, è un punto molto importante quando parliamo di impunità dei grandi poteri. Questo è un punto cruciale, deve pagare chi guadagna, perché poi queste sono delle multinazionali che hanno muovono poteri a livello proprio mondiale molto grandi, e l'unico modo per spezzare la forza e l'ingerenza di questi poteri è proprio andare a chi ha pagato queste persone per fare questi atti criminali, chi ha organizzato e finanziato tutta la corruzione, appunto, come abbiamo visto, statale. Questo è un punto importantissimo se vogliamo uscire da un impasse di una serie di cose. Cioè deve pagare proprio il padrone dell'azienda, non l'amministratore delegato, non il tecnico della sicurezza, ma che ha comunque le sue responsabilità, ma chi paga è chi è sopra, chi organizza, finanzia e pianifica tutta la struttura. Questo è un punto cruciale per tutte le lotte di cui parliamo. Sì, dopo il Ponte Morandi pensava di cavarsela licenziando Giovanni Castellucci, che era, esatto, l'amministratore delegato di Esatto. Come Vabbè, ma questo. Come in tutti, però, gli omicidi di sul lavoro, così, certo, guarda, le responsabilità, sì, cadono su Umberta Cáceres, appunto, capito, che conosci bene. Infatti voglio dire, io sono contenta che adesso, insomma, ahimè, il tempo scorre, sarebbe lunga la storia, sarebbe comunque lunga, ma noi avremo tempo, casomai lo faremo. Attuale, anche molto attuale, attualissima, perché, esatto, la partita è forse è come mai, come adesso è in pieno gioco, direi, sì. Quindi voglio dire, noi ne torneremo sicuramente a parlare, c'è la radio apposta, insomma, la trasmissione, lo sapete, insomma, siamo qui apposta per non perderci niente, per tenere proprio le antenne alte, i fari puntati. Io sono contenta che siamo comunque riusciti a parlare dalla Revuelta e ad arrivare qua, perché un po' questo è quello che siamo, è quello che facciamo. Abbiamo capito che le battaglie non sono a compartimenti stagni, che le lotte si fanno su diversi fronti quando il nemico su diversi fronti agisce, e soprattutto io credo che abbiamo imparato, o almeno io ho imparato da questa rete, che fare rete no, nel senso che poi è stato un continuo aumentare di collettivi e poi scoprire, no, arrivare da voi, dal Terza Corsia, tu con Berta Caseres in Centro America, insomma lì non si scappa, i meccanismi sono quelli, quindi riusciamo a mettere insieme tante cose e questo ci dà veramente la forza poi di affrontare un nemico nella sua totalità che appunto vive di, anche a servimento di governi, parlevamo di quello argentino e cileno, e non ci sembra che quello italiano si stia comportando diversamente, quindi insomma diciamo che per oggi chiudiamo qui, così noi riusciamo a mandarci un boccone al volo prima di così che voi riaffrontiate ognuno per la sua direzione i chilometri. Io torno a ringraziare la SNIA, torno a insomma a ringraziare la radio per lo spazio del sabato, torno insomma ad abbracciarvi tutte e tutte, a ringraziare chi ieri ha partecipato a questa iniziativa e come sempre con un saluto particolare a chi non può godere della propria libertà, ci sentiamo giovedì che tanto, come vi ripeto, di veleno ne abbiamo tanto e grazie per grazie essere a voi qua. Grazie a tutti, saluti ciao, a, tutti. A, presto. A presto, a presto. Los empresarios están indignados. Este año se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches. Cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo. La sangre pesa más que el agua, catrileo. A la prensa ya no le creo. Terroristas y mapuches, todos al mismo saco. Permanece en la trinchera como el negro matapacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil. En la Araucanía se planea un nuevo atraco. Florecerá el canelo.